tutti più lunga. Non bene, visto la veste rivoluzione del Papa. Ciao Gianni, ben fatto. Ciao Gianluca. Però se il Papa ha visto la veste, Papa nuovo. Sì, sì, di quello che vuole discutere. Sembra in gamba però, è molto semplice con la persona sempre. Stavo sbagliando un pochettino di fili. faccio delle, diciamo così, tifosi cinesi, e vanno meglio. Ecco, va bene così, Gianluca. Andrà bene, mio invece Gianluca. Tu te l'hai fatta ieri notte, io me la faccio stanotte. Ti ho fra 10 minuti, va tutto a lavorare. Mi hanno portato le uova di Occa, cazzo, quanto sono buone, sono migliori di quelle di gallina, non ne ha più. Il porro poi non rimane rotondo, rimane un po' uguale, no? È denso, un bel. Cioè tu mi presenti, vabbè io, tu sicuramente le cucini, fai prima cucinare con la cipolla, tu le butti e le fai cucinare, io le giro, sono così col piatto, già non le mangio, no, non le si fa, le girate più volte, ah sì, con la cipolla, se tu le presenti la cipolla non te le mangio perché l'uomo si sente troppo. Guarda, a te ti converrà fare la frittata allora lui. Ci metti un po' di formaggio in mezzo, in più un po' di sale e una pera per riparare il grattugiato. E dopo le giri e fai la frittata. Facciamo le cose lo stesso. Avanti, Gianni. Ma che cosa ti viene da Gianni? No. Guarda, io sono andato all'appuntamento, però ce ne è dimenticato lui. E poi non lo so, non ha più portato, vero Gianni? Soldi restando a casa. Magari, ok, dai, ciao. B2, ciao B2. Ciao B2. Ehi, buonasera a tutti, Luca, mi sembra dopo Whischetto lì. Come si chiama? Luca Poldo, ad poi capire, Poldo! Luca Poldo! Sai che cosa per mai è? Oh, Luca, il nome è tipo Luca. Usci e giù. Come on. diciamo che un po' mi sono rendendo zitto sbagliando, perché ero stanco anche io. E io ho fatto una giornata, diciamo una mattinata bella piena. Gianluca, infatti stavo dicendo, hai visto che Gigi non è riuscito ad attaccare il microfono, cioè lo attacca ma esce con un rumore strano, tra l'altro. Ma non vivo sì. Vabbè, riprendi Gianluca. Ehi, sono qua! Ha detto Gianluca, non è Eugenio. Ho detto Gianluca, poi ho detto Eugenio, Luca, chiamata a tutti perché non ho risposto da nessuno. No, non si è sentito. Ma io già fermo un po' di travaglio. Sì, per me è un problema. È un problema. Quante ore fai tu al giorno? Eugenio, quante ore fai? 6 ore non ne ho. Posso fare la mattina in genere facciamo dalle 8 alle 10 e mezzo, 11. 2 ore e mezzo, dai, la sera 3 ore, capito? Però se ci sono più navi, molte volte ci spostiamo da una nave all'altra, però più delle volte facciamo quelle 5 ore, dai, nemmeno. No, mica, e ti lamenti? No, sto scherzando. Però sono stanco, poi devo lavorare vicino a voi, dalle 8 del mattino a mezzogiorno, ma anche alle 2, da, la sera libero però. Ma perché questo non ti... Ma tu sei manovratore, sì? Ehi, raga. Ma mi devi avere la patente per fare quel lavoro, vero? Ehi, quando ho iniziato io patente non ce ne voleva. Poi la capitaneria ci ha costretto a prendere la patente, io ho iniziato senza patente. Sì, però poi ci abbiamo tre patenti, sì. A 10 avete? La? Dila, ecco. B, C, D, E. Ecco, appagato. Sempre in un luogo pubblico guidi, quindi è giusto che sia così, là. Nell'ambito portuale le patenti non ci volevano, perché non poteva transitare nessuno nell'area portuale, capito? Però il porto popolatore c'era come la piazza e allora ci hanno costretto a guidare con le patenti. Prima mi ricordo c'era il divieto, adesso passavi tutti, è una strada praticamente il posto. Sì, vabbè, adesso dove manovriamo noi non passa più nessuno. Perché ci sono gli sceriffi, ci sono le guardie, c'è anche Luca. No, raga, i pistolini. Come granai, no? Passano da via Caravaggio e ti esci dall'abbati a fare via Sassari, là. Capito, fanno il giro lì per trincare e passano lì, però è una zona privata, come hanno capito che ci sono mezzi manovra e cose, molte volte sto manovrando e passano loro a testa, di cosa si è scintata di burro. L'altro giorno ho detto, ascolti, guarda che questa non è una strada, è un luogo privato, c'è scritto anche attenzione, mezzi manovra, c'è anche scritto. Sì, ma la gente lo capisce già, la gente non è tutti nuda, poi vabbè sta l'educazione della gente. Capito? Sta l'educazione della gente. Però non comprendili. A noi ci dicevano cosa? Ci dicevano andate piano, che state facendo polvere, lo sai chi? La gente che stava pescando. Non mi guardi. A noi basta che con un click facciamo terminare tutto, perché noi chiudiamo il cancello e fate un yoga, non si basta di più, basta, e riprendiamo l'abitudine. Va bene già, io stavo a mangiare, ci sentiamo più tardi, dai se ci sei. Continuiamo il suo discorso, che adesso vado a far muovere un attimino i denti. A più tardi, ah, ciao. Ciao Gigi, ciao, buon appetito, dai, buona carica, avanti Luca. Gianluca. Luca si deve essere spostato, là, dopo, ciao. Ok, yeah. Okay, yeah. telefono, stavo parlando al telefono, capisci? Ma il suo motivo era? Ma Eugenio, Luca e cosa? Eugenio va a mangiare, Luca non risponde più, tu non rispondi più, allora alla fine fa bene, non esci uno, faccio così grecca, probabilmente sono andati a mangiare. Però a parte lui è sempre in mania di barattoli di marmellate, di un così. La Santa Rosa, come buona, una ragariaccia. La marmellata Santa Rosa. A me non mi piace la marmellata, mamma mia. Solo le ciliegie mi piace, basta. Cioè, le ciliegie mi piace, ma la marmellata in genere non è che mi attiri tanto. Nel miele, nella marmellata, queste cose dolci dolci, brutte, non mi piace. A me la cariaccia, è buono, solo la cariaccia mi piace, ma già. Però le gusti miei, anche a me perché sono la cariaccia. E Santa Rosa poi è rinnovata come marmellata e fa una roba buona. Costume c'è adesso. Sono a costume. Come se vuoi avuta la samosa d'olio. Ma di chi si è stralacci? Non so cosa intendi. Vedi, ma fai addominali, le tartarughe, no, io faccio un disco di tre direttamente. Non faccio tartarughine, faccio un disco di un marino. E tartaretta, pure io dico così. Beh, non è la tartaruga, la per taccaretta. Se ti piace così, e c'è una tradizione cultura così. Allora, ma se no basta la ciappana di cacchino un po' robustella, e si è a posto. E allora, se vuole proprio di me che è bene, ma fa una bella bura di partita, bella, infatti hai sempre bella durissima. Poco poco come pomirina guai, posso vedere a Tarricone, guai, ma molto di te. Lui ce l'ha fatta la fine, ma è già molto contento, già ce l'ha fatta le sue avventurine. Sto guardando la fiction dove c'era lui, le stava rifacendo. Sì, mi piaceva bene anche a me, sto guardando. Immagini che in mezz'ora, diciamo da qui a Roma, in mezz'ora prima eravamo a Sassari e dopo ci lasciavamo la notte. E non so, non mi vedo più la nave, boh, sarà perché io sono più di mare che di cielo. Io ho amici che hanno gli ultraleggeri, mi hanno detto molte volte, io dai, vieni che ti faccio un giro. Mai vi sono andato, già lì. Allora, ho già parlato pure a vedere i battenti, tutto quanto, eccetera, eccetera. C'è anche la radio. Sì, chi si vede di mai? Si vede una forza di vento, ultimamente chi si avuta che c'è un travaggio, se intanto diventa che c'è il coltello, quindi la madà. Una quindicina d'anni fa. Io stavo andando alla zona industriale a caricare e ho visto un tramoggero del Tavudelone e lui ci hanno portato via l'ambulanza. Deve essere qua perso la volta, che cosa? C'è entrato tutto del Tavudelone del rimorchio. Proprio poco prima di Maddauri, un po' prima. certo, si hanno buttato tutti gli ambuloni, siamo buttati in ambulanza, si hanno buttati. Ti ricordo, si sa, arrivo la più. No, io penso di no. Perché ci sono quelli, io conosco gente che, per dire, facendo motocross, caduta, è stato in coma mesi, mesi e mesi. Hanno operato, fatto, gessato e cose, adesso va a fare di motocross, boh. Tu dovevi vedere la madre quando lui era in coma com'era. Una donna era distrutta, bella viene la voce da figlio. Bianca in faccia, tutta dimagrita, tutto, ci stava, si vedeva la sofferenza della donna. C'è gente che ha la passione proprio, è quel Luca, come si chiamava, quello che è caduto facendo appagli da carro, che cos'era? Mi sono rimasto mezzo marito, mezzo senta, come? Vero. Di dove la sa fissata? Praticamente è il fatto della Dinamo. E si sono conosciuti? La voglia? Io penso che quello lì se la farà un'altra di quelle gare, perché sicuramente ne vuole uscire vinto sia dalla, diciamo, dalla paura di affrontare questa cosa, sia dal fatto che si può vedere fuori che ce l'ha fatta, capito? Anche tu tu dici, sei caduta e morta, la riprendi, e la casa per piedi. Tu sei caduta e morta, ti sei truccato tutti i due ranchi, ma la casa piglia. Sì, già, però diciamo che il fatto di prendere la moto e farti un giro ogni tanto così va anche bene. E nonostante tutto la moto, sai che qualcuno è una moto a passeggio, ma anche lì non è che della candela, nel senso che se devi succedere pure con un motorino, con un ciao, con un sì, con una vespa, un scutterone che non riesci. Però diciamo che tu li fai più, ma non posso più già, Ma la vespa ancora ce l'hai già lui. Sì, adesso questa cosa la mette a moto. Quale? Quella che ci avevi incorniciata a compare? Grazie. Borgia, la macchina mia cammina come se di matichi la giù comparata, non ha un'imperfezione nulla. La butta già, quella sua ce la butta già la berlina, non so se tu ti ricordi come è provvisto con la macchina lì, avevo le 1.600 valvole a benzina, era una figlia bellissima, tutta accessoriata, in radica di noce d'Arezzo. Bella macchina, ma è un problema, non mi soddisfazione ma con la macchina. Ma per me, confronto alla Fiat, che già avevo un marmite e questo e quell'altro, questa le faccio vedere i tagliandi e l'unica volta che mi ha dato il problema era la sonda lampa, che l'ho dovuta prima pulire e poi si è intasata nel tutto e l'ho dovuta cambiare, ma 80 euro lo farò. Che cosa? La sonda lampa. Questa specie di catramina e non ti fa, è un catrame, e non ti fa muovere la valvola, cade dal gas al coso. Quindi cosa succede? Che a un certo punto la macchina bubù va a colpi, poi si blocca e la devi mandare a benzina, perché sennò non cammina. Poi vai lì, ti apre la pompa a coso, sputa lo spray, che la asciuga questa roba, mi la fa far vedere, cazzo di grossa. Io invece ma qui che il tempo non è dove faccio bisogno, ma quei fondi metti di finti, ciao, me l'ha pulito e mi ha detto guarda non c'è quasi nulla, proprio niente, di cazzare non è, c'è appena appena di sapere che quello può succedere come tirano i gas, capito? Ma non ha una cose che succedono, non so, a chi fa queste prove, queste... Io non amo tanto fare di queste cose, proprio perché ho paura che succeda il peggio, allora mollo, non apro apparecchi, niente. Qualche volta faccio qualche saldatura di spinotti di microfono, queste cose qui sì. PL, quello, quelle cose lì le faccio, però no, per gli apparecchi non li apro. Assistente. Bravo, assistente, ma non mi dice la parola. salutoni a dai. Come dice c'è un detto, ognuno ha la sua, avanti già. E cacciaviti bisogna lasciare da parte. io non so, io dico a vita, tranne che mettere uno spinotto nell'apparato, uno spinotto nel microfono, fare i collegamenti. Ma che cosa è così, il pieno della lanterna, ecco, però più da parte no. Circuito devi avere un saldatore ad aria, perché le saldature fatte nei circuiti sono molto molto delicate, si attacca una pista con l'altra per il casino nido, ed è uno. Poi devi avere gli strumenti per misurare le finali, tutte queste cose qua, oscillatori, insomma un po' di tutto devi avere, e se no il lavoro lo fai lo stesso, quello verrà fin fru, non è un lavoro professionale. Ognuno è l'arte sua, c'è poco da fare, non deve stare lì a frugare, a fare quando sembra che tutto sia a posto e tutto fatto, però non è mai andare intuito o quant'altro, tutto lì. Io adesso nel mio campo ho delle schede, diciamo che ormai, già da vecchia data, piano piano, sono riuscito a individuare i danni che potrebbero essere, invece per dire un danno che mancano delle luci, un danno che manca la musichetta, un danno per dire che fa partire la funzione del gioco, insomma tutte queste cose pian piano, però logicamente non è che vai a mettere le mani dentro un apparato lì a se parte può essere o non può essere tutto quanto. E infatti io lavorando su queste piccole schede, che sono delle piccole schede, che ci sono dei vari componenti, ci sono dei condensatori, sono dei cose, io ho dovuto prendere proprio quel saldatore ad aria calda, perché inizialmente facevo solo danno e basta col classico nostro saldatore comune che usiamo. Ti devi adeguare, c'è poco da fare. Beh certo, ti devi adeguare, ma devi avere una certa base per fare quelle così. Se non hai nemmeno le basi, addio Ninetta, fai danno e basta. Avanti gente. Mi sono dovuto assentare un attimino. Non ti ho capito, cosa hai detto? Con questo andatore lì adesso va bene anche per fare qualche lavoretto sulla radio, sempre sapendo cosa si fa giustamente, no? Beh, solo se uno c'ha un po' di esperienza, se no meglio di no. Sandro, la prossima volta ti metto la muta quando metto il furgone e carico e scarico messi. Capita che ti frega il posto, no? E casa, lo sai cos'è? È che quando devo andare per dire lì nella via principale, non c'è mai uno spazio libero, Allora, se tu hai fatto caso, lì di fronte, il piano, il, il parcheggio carico e scarico che c'è lì di fronte al comune è sempre occupato da macchine, non è mai libero questo cavolo di parcheggio carico e scarico per i furgoni. E allora capita che per dire devo andare lì nel centro, per dire devo andare lì vicino, faccio il giro, mi parcheggio lì e poi me la faccio a piedi, capito? Pensando che sempre potrebbe arrivare Gianni e non trovo parcheggio Gianni. Sì, ieri, senza andare tanto lontano. Sì, hai ragione, quel parcheggio lì, addirittura prima c'era sempre il vigile, in piazza adesso non ne vedi più uno, cioè hai fatto caso. Sì, no, guarda, è uno schifo, capite? Allora devi andare alla ricerca, ma delle volte parcheggio anche dietro lì dove c'è la ferramenta lì di... non mi ricordo come si chiama lì di fronte al porto, ma delle porte delle volte è sempre diciamo occupato e allora devi fare chilometri e mi domando e dico più delle volte vigila che cosa ci stanno a fare. Sì, infatti io mi è capitato più volte che dovevo andare in comune a portare l'acqua al consiglio comunale e molte volte mi tocca fare il giro 2-3 volte, alla fine mi rompo le scatole e dove trovo parcheggio la metto. Hai ragione anche tu, perché non ti mettono in condizioni di poter lavorare. Capito, è quello lì, non ti mettono proprio in condizioni di poter lavorare, perché se uno c'ha un furgone evidentemente ce l'ha per lavoro, che sta lavorando non ce l'ha per passatempo, e a quanto pare diciamo non fanno rispettare queste zone diciamo adibite diciamo a piano carico e scarico. È sempre occupato, più di una volta mi è capitato di arrivare lì, parcheggiare diciamo con le quattro frecce, arrivare il vigile, ti fischia a dirgli ma guardi che la zona carico e scarico è occupata da macchine, e l'unica cosa che ti senti dire dice ah ma questo non è un'osservazione che ci deve fare lei, non ci deve fare lei, ma cosa bisogna fare? Poi ti metti in seconda fila perché devi scaricare e ti mettono a montare a terra per un di nuda. Io una volta che l'ho detto, anche mi da volte il vice, glielo ho detto. Io sto lavorando, anche io sto lavorando, lui faccio il suo di lavoro e faccio il mio. No, è bello che più della maggior parte non lo fanno, capito? Non lo fanno perché se invece avessero messo le multe a queste macchine che occupano diciamo il piano di carico e scarico, vedi che sarebbe più libero questa zona diciamo per chi lavora per i furgoni. Invece no, succede che è sempre pieno di macchine, ma neanche di furgoni. E vabbè, è un casotto, è proprio un casotto. E vabbè, più delle volte devi pazientare, perché sennò poi va a finire che ti metti lì a far polemizzare e a fare delle storie. Ma bravo, Gianluca. Ma sì, guarda, anche io ne vedo molte volte lì, che passano e fanno, molti però anche, diciamo, l'utente comune, diciamo, dicono che usa la macchina così per passatempo, che c'è un mezzo per lavoro, queste cose qua, ce l'ha tutti altamente, molti anche si parcheggiano lì nelle parcheggio utilizzate, io questa li hanno fatto per cartello, e mi piace il mio parcheggio, e mi piace il mio è un casotto. Adesso per dire a Sassari non è così. A Sassari tu nelle zone diciamo riservate a carico scarico tu non ne vedi macchine normali parcheggiate, capito? O lo trovi libero o trovi un furgone, un mezzo di lavoro, capito? Ma comunque perché se sei tutto pieno di vigili urbani che girano e fanno e ce ne sono anche a Siena, invece a quell'altro sentire non ne ho più visto, ma è difficile che li vedi, sono le macchine, girano e basta. Quindi in piazza prima c'erano due di vigili urbani, sempre. E se ti parcheggiavi dove c'è il carico scarico, lui ci pigliava il fischietto, e ti fischiavano. E ti dovevi spostare per forza, se no ti bullava la multa. Adesso non ne stanno più mettendo. Questi nuovi sono più comprensivi. quegli anziani erano più tosti, più tosti. Quando c'era Fiori, poi lui. Quando c'era Fiori? Fiori era massacro, ragazzo, Fiori era un qualcosa, guarda. Lì a San Gavino, non mi ricordo, in quella zona lì comunque. Tu lo arrivavi tranquillo, tranquillo, ti guardava, si prendeva il suo blocchetto, ti guardava in faccia e ti diceva, allora cosa facciamo? Ho detto, no, siamo più, cosa pensi che io devo fare io adesso? Tu pensi che io sia qui a passarci il tempo? Cioè, la prendeva proprio di filosofia, guarda, è allucinante. C'è molto la mente la moglie, lo faccia di ghiscio. Allora, stavamo lì, poi c'è il palettino da giardino, aveva avuto 18 anni, 20 anni, passa il vecchio vede la parete, ero da un po' scorso i bambini, anche lui era sempre a qui, e ho passato il chiacchierami duri, no, da quelle campagnette dove sono stato, quando mi hanno costruito per farsi mondiali, per questa campagnetta, no, e siamo usciti da lì sparati, abbiamo fatto un clicco, no, pure a posto. Ma voi ci incolata e lasciamo tutta la lasciata le marciapiede della ruota. Ma due sono, perché non abbiamo visto, siamo proprio davanti, e poi come mettiamo. Perché fa ridere quasi. Vedi i personaggi che senti, proprio vedi, e da quei voli di gatti popolari, di illuminazioni, di carri asfaltati, insomma. Quindi c'è raccontato come in Roma. Sì, io ti voglio far pagare gli onori di urbanizzazione, buh. Sì, questo è nulla. Ho lui a Francesco Fiore, cioè a Mario, mi ricordo quelli dei vecchi. Mandavano il comando in vicino dove c'era l'Avis, dietro le piazzure. Erano i passetti nella via della, dove c'è il barbiere, dove c'è dietro la pianta la chiesa, no? E lui stava uscendo per andare a piedi per girare. Siamo arrivati sparati, abbiamo frenato. Come ha sentito questa moto accelerare, no? Lui cosa ha fatto? Ha preso e è uscito fuori all'improvviso. Ci ha fatto un po' di tempo che lo stavano avvertendo. Ha fatto il test in terra, quando i lanci si è andato di buttare a mano e sotto e poi le rimane nato lo malucchio della Vespa, no? E stavo uscendo la moto, eravamo tui noi. Ah, vedi, la guantata è stata pure, ecco, 16 anni di vita voi. Eravamo di là dall'anno e sta bucando 30 kg, 30 anni da terra. Via. Ma una volta il direttore Sacchi invece di far fermare un autotreno che stava arrivando, perché prima scendevano da lì, ha bloccato a me, dico, c'è mezzo strada, ma si era rifiutato perché si è avuto la ragione più, si buttava di colpo così, e mi sono fermato, detto, adesso si fa tutta retromarcia, tutta retromarcia, retromarcia, sei solo, che la retromarcia non la faccio, e poi con tutti gli altri che stanno arrivando, ho detto, io metto a fare la retromarcia, ma non sta scherzando, e io le faccio la multa e lui mi faccia quello che vuole, però questo è abuso di potere, perché io non ho fatto niente di cose lì, ma fermato, io mi sono fermato, quindi cazzo. Alla fine mi ha detto, guarda, questa volta le passa. E la prossima volta si ricorda di mettere la freccia quando si ferma. Ma prima erano più per farsi fermare sulla strada, magari la brutta figura di quanti anni fa, magari era andata a mettere niente, un preso. Era più visto che ti via, tanto da, vai, che ci piglia, vai, va forte, ma mi sta usando soffie elastici. Ma prima, falli di no. Il polizio non sta picchiando, e poi non le dico che ti sta portando uscia. E poi ho detto, ma che cosa c'era? Detto, per attirare l'attenzione, qualcuno che un attimino viene in rispetto, no, io sei buio fischio, sono buio fischio. Allora prima mando un verbale, poi con uscia, Ehi, vabbè, fanno un po' come vogliono, Gianlu, dai, fanno un po' come vogliono. Solo perché sentono, diciamo, di avere magari una divisa per questa e quest'altra. A me mi è capitato avere storie di Alfonad, ma l'ho ammesso perché sono arrivato di fretta, mi sono parcheggiato sui disabili lì, sono arrivato, l'ho visto scrivendo, e quando ha finito di scrivere, che dovevo firmare, lei dice, ah, qualcosa in contrario? Ho detto, ma il contrario non c'ho niente, ammetto di essere in porto, poi basta, cioè non sono stato lì a polemizzare, cioè ho riconosciuto, diciamo, il torto. Ma poi il maestro dice, guardi che questa è la prima ultima volta, perché questo mi ha detto, sì vabbè, ho detto, guardi, non c'ho tempo, devo andare via perché sto lavorando e così via. No, quando va via glielo dico io. Cioè, quando cominci a sentire queste parole, ammetti che c'hai torto, e tutto quanto, e cominci a sentire queste torte, allora lì diventa un po' una cosa pesante. Io ho detto, va bene, ho detto, mi dia per male tutto quanto. Dice, questo lo vedo io quando devo lavorare. Mi siede in macchina e me ne stavo andando. Si avvicina a lui e mi fa, dice, guarda che deve mettere le cinture. Ma lì non ce l'ho visto più. Ho detto, ascolta un attimino, gli ho fatto. Ha detto, ma cosa mi vuoi fare? Il terzo grado mi vuoi fare. Ho detto, ma chi sei? Ha detto, fai il tuo lavoro. Ho ammesso tutto, tutto quanto, quindi muovami. Io non ho tempo da perdere. E mi ha dato per male, sono partito, puh, via, infatti dopo sono andato subito a pagarlo, cioè con tanto di arroganza, con tanto di cose. Quando come sarà punto di uscita, non fa le scatole. E una volta mi ricordo che stavo tornando proprio da 4 ore giù a pescare ed ero un bel contento perché avevo preso 3 orate, mi fai di sciare, io ero un bel contento perché avevo pescato bene. Erano le 4 di mattina, sa, e io a quell'ora lì, per la televisione di Domenica, mi accendo sempre la radio a tutto quello quando sono fuori dal paese, no? Allora, di accesa, tutto contento, a un certo punto cazzo arriva la fiamma sarda e me ne esce questo carabiniere da dietro un autotreno che c'era parcheggiato lì, a sua, stavo camminando di qua a vista, alle 140, roba del genere, ma com'è che va la via, c'è la macchina mia, ha cominciato tu, mi sono riuscito a fermarmi, mi fermo, questo qui guarda, si avvicina con questa pila grossa, ah, senza paletta, senza nulla, si è messo in mezzo a strada. Praticamente mi punta la pila grossa nella macchina e ha detto guardi che ho i documenti dietro, gli ho chiesto forse qualcosa e gli ho detto no, ma mi ha fermato, sì l'ho fermata ma non gli ho chiesto nessun documento. Ho detto vabbè, niente, adesso mi ha fatto vada malamente, ho detto, ah mi sono incazzato, ho detto ascolti, io sono un cittadino onesto, mi sono fermato, le sto dicendo questi documenti lì, vada, ho detto allora cerchi di usare un altro termine invece che trattarmi come un pezzente, e mi ha detto si accomodi. Non va a passare nulla mi già lui, non se ne è accorto nemmeno lui che stavo correndo perché ce l'ho fatta rallentare prima, quindi lui si è accorto proprio lui al buio, lui è uscito da questo autotreno senza paletta. Il giorno dopo io ho parlato con una persona che è lì dentro la caserma, che ha i gradi, e mi ha detto che aveva capito anche chi era, me l'ho descritto, mi ha detto se vuole venga da noi, lo chiamiamo e gli facciamo almeno una volta di testa, perché lui deve avere la paletta, quando ferma una persona deve prendere il nominativo e assicurarsi che la persona fermata sia una persona tranquilla, eccetera eccetera, e se per caso è tranquilla, intanto deve sempre fare diciamo il verbale e scrivere che ha fermato la persona, la pizza, nome, cognome, tutto quanto, numero di partenza, eccetera eccetera. Non può fare quello che ha fatto. E lui addirittura è punibile già dal fatto che lui mi stia dicendo queste cose, però dice se vuole, ho detto sì, cosa faccio? Questo tutto il giorno di una portata, se poi vi trova si vendica. Sotto le lenzuola, sì. Brutta porcazione che non sei altro, lo metti a modulare anche da sotto le lenzuola. Bravo, fai così, per essere davvero. Ola. Vabbè. degli film, comunque dai. Va bene, dai signori, io vi lascio che vado, vado a farmi la mia passeggiatina, ce la risentiamo alle prossime, dai, per il giorno. Ehi, andate in cucchi, perfetto, e io lo stesso metto, riesco a sollevare un attimo qua, un po' di roba che ho dei piedi, passo dall'altra parte, allora due passaggi, due cose, e una mattina altre che presto. Buonanotte, buon tutto per domani, ci sentiamo, ciao, ciao, buonanotte, buona passeggiata, ci sentiamo, avanti Gianni, io sento anche Gian Paolo, però non lo sento, non lo sento nulla, nulla oggi. Ma, oh, scusate, scusate un attimino, oh Gianlu, ma chi è che sta aprendo quel locale? Cos'è qua, ristorante o cos'è? Vicino al rifornitore, vicino al porto? Vicino simile. Ma stai scherzando? So che è lui. Lui e forse però c'è qualcun altro però. Ah, beh, vicino simile, boh. Su quel campo limbo. Vabbè, dai. No, perché ho visto tutto allestito, tutto deve essere in fase di apertura. C'ha già le insegne fuori, ma visto che ci ha messo le insegne, è bello, eh? Ma no, lui c'ha la veruria. Eia. Ci ha fatto casa, lo sai. Sì, bello, è anche grande. Dove c'era il negozio di cinese prima? Ah, quello del fango, dove c'era l'ex discoteca. Perfetto, sì. Dove c'era tutta la discoteca. Bravo. Quindi sta aprendo il ristorante e vabbè, buon pro di voi, ci aspettiamo che vada bene perché tutti gli esercizi che stanno aprendo, non stanno facendo grossi affari. Ah, ristorante, pizzeria e disco pub. Aspetta, una grande cosa, vabbè dai, buono buono. Oh già, ma dimmi una cosa, il mio concorrente lì ai granai è andato via. Ma non lo so sinceramente perché non si vedono più le macchinette. No, no, sono passato quando? Sono passato l'altro giorno per... non riuscivo a prendere il pellet e ho detto ma vedo forse per caso, di solito lì da voi non manca mai. Di solito ero all'ingresso, ho visto tutto nudo e ho detto ma non c'è più niente. Probabilmente... è un periodaccio e... magari non andava, non lo so, è un peggioraccio, sa, un casino, se non ti va una cosa la togli, la spusti, già lo sai meglio di me, e cerchi di farla andare di più. Ehi capo, già lo so, già lo so che è un periodo un po' grigio, dai, e adesso aspettiamo. Dobbiamo aspettare soltanto l'arrivo del mese prossimo, dopo Pasqua, dai, per vedere un po' se si muove qualcosa. Se no la questione è un po' tripula. Dai, vi saluto. Fatevela buona, ci sentiamo alle prossime. Mi prendi, Gianlu? Sì, anche di nuovo, ciao Sandro, buonanotte, a domani. Ciao ciao, Gianni. Ehi, ciao ciao di nuovo, sa. E allora bisogna andare a vederlo questo disco pub quando apre, a vedere com'è. Perfetto. Io penso che così sì. Ci buoniamo una cosa, un sabato dove faremo. Ok. Com'è questa rivelazione, Gianni? Questo Mike come va? No, va bene Gianni. Questo è lo sciure. E questo è invece il tarme, però posso aumentare appena appena. Allora, questo è lo sciure, perché tu sai benissimo che c'ha due ingressi microfonici, questo qui praticamente è il tarme, questo è sempre lo sciure, questo è il tarme, questo è lo sciure. Piccola, e tu qua aggiunga un poveretto. Vabbè, dopo puoi anche mettere un pochettino il doppio modulatore, vediamo un poco col doppio modulatore, il turner, e con il doppio modulatore invece lo sciure. Mi piace più il turner con doppio modulatore e lo shure invece senza doppio modulatore. Allora, questo è il turner con doppio modulatore e questo invece è lo shure senza doppio modulatore. Senza doppio modulatore. lavorare tra Parma e le Schuller, preferisco le Schuller. Invece col doppio modulatore di Siritto il Parma va meglio. E lo so, deve essere un buon mercato, vuole farle più forte, farle più forte come struttura microfonica. Perché tende a diventare un po' metallico l'occhio. Perché io quattro superato me le ho fatte, mi sono passato un po' più tempo. Cosa vuoi fare? No, non ho seguito Gianluca, ho seguito la fare del Papa, qui ho spento e sono venuto in radio. Cosa ti stavo dicendo? Guarda che sto prendendo ZG 1300, se interessa qualcuno. Quello da 200 watt? Meia. Ehi. Sta a pizzere del dolore, adesso ci siamo 50 voci. Diciamo che questa qua sembra più una modulazione. situazione professionale, correggimi se il termine non è il migliore, diciamo che questa qui è una modulazione più professionale, l'altra invece più da battaglia, tipo fa burutumi, magari gli stichini quando incomincia la modulazione per fare gomma. È più metallica comunque, Gianlu. Questa più metallica, mancanza di bassi, l'altra ha più bassi, te l'ho detto, qual è meglio scelta del tuo modulatore, l'altra come il tuo modulatore? Sì, sì, confermo Gianlu, confermo, va bene. Guarda, i passaggi che fai, c'è certa la differenza. Certo, se me li fai così, non è che te ne accorgi, però se li fai così come stai facendo adesso, cioè parli prima e secondo, si nota, la voglia, si nota il come. Però prima non riuscivo veramente. Comunque i passaggi, cioè il primo che mi hai fatto adesso, l'ultimo che hai fatto andava benissimo, bello. E segnale 9 qua, Questa invece è un'altra radio con un altro mic. Ok, questo invece è più 2, questo è tranne più 2 con un altro baracchino, però dai. Questa è bella. Qua sempre va bene. Però avere il bambino troppo amplificazione, perché se voglio posso anche aumentare ancora di più. Però lo tengo sempre così perché mi sembra che sia la posizione più corretta. Ha vinto questa Gianluca. Qua confermo. Ma già Gianluca c'è bene, però sempre sentito bene. Non è che esce male. Poi c'è varie radio, secondo, questa è bella Gianluca, C'è la sicurezza col segnale che hai, sei perfetto va. Sembri qua in locale. Dai, una vecchia radiolina questa qua. Tutte bene. Adesso la faccio un po' di passaggi anche con le altre. Così almeno facciamo andare anche un attimino un po' le altre. Spostiamo il mic, lo mettiamo qua, così possiamo fare qualche passaggio. Tu prendi Gianni. Però con questo sono il tamburo. Si sente sembra come lo stupi, è un po' amplificato, sembra che solo il tamburo. Comunque questa cosa è migliore, con che apparecchio lo sto usando? Guarda, ho abbassato un altro pochettino, così almeno... Aspetta, forse perché stavo toccando il coso del mic, adesso l'ho lasciato un po' la fissa. Questo è un vecchio Seat SSD con un TAR 22. Bello, veramente è bella la radio. Questa qua è quella che ha vinto, secondo me. TAR 22 per la tua modulazione, la tua timbrica, è il migliore. Saia, come mai? Cos'è questo rumore? Ho vento a 10 anni. Ma cosa c'è portante? No, non è la mia vento. Perché si sente rumore? Vabbè, rumore di vento si sento. Vabbè, così è normale. Ma il vento quando si attacca non si sente. Ma però io non la sento più di tanto e qua. Oh, già, ti sento... è forte, però boh. Sembra che sia troppo attaccato, troppo staccato dal microfono. Prova così. Ehi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso sì, però lontano, è normale. Ma sento rumore di sottofondo, cos'è? Qualcuno portante oppure c'è qualche interferenza? No, io non sento nulla, tu. Senti, però c'è che fondo scala qua, cosa sento? Non sento niente. Se parli quando non parla nessuno, cioè stai dicendo quando non parla nessuno, sento un rumore roba di QRM. No, adesso la senti il rumore, quando lo senti? No, quando modo di no, quando mollo lo sento, tipo un'alternata o qualche cosa. Tu lo senti? Sì, lo sento, ma tu lo senti qualcosa? La bruciata, ma tu Gianluca. Come Gianluca, tu stai fischiando adesso? Sì, adesso sì, ti stavo provando qua un attimino la radio, dai. No, io non sento niente, non lo so. E sarà lì a 14, molto io. mi succede una cosa, per dire, sono lì a Monterrasu, faccio un 4M da crepare, poi ho rifatto la VDV e non si sente più nulla. Ma noi sapete tante cose, gli altri canali non c'è. Facciamoci un attimino, andiamo al 10, vediamo un po', un attimino, scusate. Allora.